scegli tu. Fino al 29 febbraio decidi quali prodotti tra le grandi marche scontare del 30%. Verifica la modalità nel tuo punto vendita. La Coop sei tu. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. In un mondo che si muove più lentamente della gente che lo abita. Se sì, la fe. Se ti togli i paraocchi, la visuale lampi. Che mostri ce l'hai dentro e non ce l'hai davanti. Se ti togli sparo perché qualcosa è dentro e mi fa paura. A te che guardi il mio colore come fossi extraterrestre. Alla mamma che mi nota e stringe figli a sé. A chi all'asilo mi faceva già strane domande, come ad esempio che colore avessi il sangue. A chi commenta di nascosto e crede non lo senta. Contro ma c'è troppa differenza. A chi ha la Barbie con la pelle bianca dai 60. La mia io l'ho aspettata sino al 1980. C'è chi si vanta di ideali dove neri ed omosessuali indifferentemente sono tutti uguali. Cioè diversi in quanto tali sono da trattare differentemente dai normali. Questo fa paura. Chiudo bocca e occhi nella notte oscura e hai paura perché sono troppo scura. Mi consideri soltanto per un'avventura, ma non consideri la mia natura perché sono negra, negra, negra. Ma quando mi vedi nuda, nuda, nuda vado bene anche se sono negra. Buona serata da Valentina Furlanetto, bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera a cena Radio 24 abbiamo una giovane ragazza che avete visto e sentito al Festival di Sanremo tra le nuove proposte, che ha fatto parlare di sé per la sua bella voce, per questo testo provocatorio. Avete sentito questa canzone con la quale si è presentata al Festival di Sanremo. Benvenuta Cécile. Buonasera, buonasera, ciao. Allora Cécile, è uscito adesso il tuo album, no? C'è anche questa canzone, ce ne sono molte altre, sì. È uscito da poco e lo potete trovare invece nei negozi tradizionali dal 4 di marzo. Cécile, innanzitutto complimenti, è stata una partecipazione importante. Da quanto tempo tu canti? Ma diciamo che la musica è sempre stata nel mio DNA, canto praticamente da quando ero piccolina, perché mia madre mi ha trasmesso questa meravigliosa passione che è la musica. A 7 anni poi ho iniziato a far parte di un coro, successivamente ho fatto il Festival di Ostia, sai, quelle cose comunque canore ma nella mia città, e niente. Perché tu sei di Ostia? Sono di Ostia, sì, ho tutto quanto a Roma, però sì, sono... Sei nata a Ostia? Esatto. Da genitori stranieri, camerorensi, esatto, no? Entrambi? Sì. No, papà è americano. Papà è americano e mamma è del Camerun. Sei nata ad Ostia e parlavamo prima del piatto che ci hai portato, perché tu mi dicevi, e lo si sente anche quando parli, che insomma sei molto radicata ad Ostia, a Roma. A Roma, sì. Anche se il piatto che ho portato in realtà non è un piatto romano, perché è la lasagna con pancetta e zucca. E come mai questo piatto, da dove arriva? In realtà come si dice un po' a Roma, è un po' una gafonata, è un mix di tante cose che mi piacciono. E quindi è il tuo piatto? È un mio piatto, sì. Però la lasagna, diciamo che l'ho vissuta tantissimo, anzi l'adoro tantissimo, perché avendo vissuto poi in Emilia Romagna, quando ho giocato lì per insomma 2 anni che ero lì a Cervia, era un piatto che mangiavo praticamente sempre, cioè una domenica sì, l'altra pure. Quindi... Perché tu giocavi a basket. Esatto. Adesso cerchiamo di ripercorrere un po' della tua storia. Tu dicevamo sei nata nel Lazio da genitori stranieri e poi sei in qualche maniera stata cresciuta da delle suore. No, in realtà, allora, suora Elena, che poi io chiamo nonna, mamma, dipende, lei è una suora laica che lavorava nel Centro per la Vita. Io non sono, diciamo, cresciuta in una casa famiglia o comunque in un centro. Io sono proprio andata a casa sua, nel senso, lei, la cosa bella che fece all'epoca fu proprio di dire a mia madre: ok, tu sì, hai 17 anni, sei una ragazza molto molto giovane e mi rendo conto che non è semplice, ma se hai bisogno puoi venire direttamente a casa mia e poi successivamente vediamo cosa si può fare. Tua mamma era poco più che un'adolescente, sì, insomma. Veramente sì. Quindi questa suora Elena, questa nonna Elena, proprio, si è presa cura di entrambe. Esatto. Lei l'ha proprio accolta in casa sua perché era incinta, per cui prima ancora che io nascessi lei già mi conosceva. Sei cresciuta quindi con una figura, la tua mamma. Mia mamma. E con un'altra figura di supporto molto importante. E l'altra mia mamma praticamente, sì. Perché io chiamo mamma entrambe. A volte nonna, però da piccola l'ho sempre chiamata mamma, per me. Tua mamma poi ha faticato molto, perché comunque era molto giovane, e è riuscita tra l'altro a avere una carriera, no? Sì, mia madre già, insomma, prima di venire in Italia, lei già comunque giocava a calcio. Infatti lei venne proprio in Italia per giocare a calcio. E mamma è stata una giocatrice fortissima della nazionale del Camerun. Successivamente è venuta a giocare in Italia, ha giocato per la Roma in Serie A e poi ha giocato anche a calcetto. Adesso è ritornata di nuovo a giocare a calcio, infatti gioca in Serie C, ma mamma a 39 anni penso che è già tanto che continua a giocare, non so, è fortissima, non so come faccio, ma non perché è mia mamma, ma perché è forte, è veramente forte. Ti sei dedicata parecchio allo sport, no? Sì. Non al calcio, non hai seguito le orme della mamma, no. Ma al basket. Ho i piedi a forma di banana, cioè non sono proprio... No. Però sei molto forte nel basket, no? Ho giocato. Tanto che hai giocato con le azzurrine. Sì, ho giocato con le azzurrine nella regionale del Lazio. E poi sì, ho fatto un raduno con la nazionale, nell'Under 20. Ho giocato in Serie A perché ero lì col Cervia, con il Napoli. Poi sono andata a vivere negli Stati Uniti. Ho giocato praticamente in Serie A1 nella Old Dominion University, che sarebbe la squadra dell'università, e giocavo lì in Serie A1. E a volte quando ci penso dico, cavolo, ma ho fatto tutte queste cose. Però... Perché sei giovanissima, non si può dire, perché sei una ragazza. Questo, no, ma poco più di 20, ecco. Poco 20, più di 20. Sì, 20, 20, 22, 21, 22. Si può dire, insomma, sì, per sì, una 22. Persona così giovane. Non volevo chiedertelo, ma insomma, in effetti è anche bello dirlo, perché hai fatto tante cose, hai fatto tante cose. Adesso la canzone, no? Come mai tra il basket, con un buon successo nel basket, hai deciso poi invece... se hai deciso che questa è la tua carriera, di dedicarti alla musica? Allora, io diciamo che alla musica mi ci sono sempre dedicata, nonostante io giocassi a pallacanestro. Per dirti, io alle medie suonavo il violino, tuttora lo suono con molta passione, e mi chiamarono per andare a suonare nel conservatorio, proprio per studiare lì. E io dissi no, cioè io voglio giocare a basket. Diciamo che la pallacanestro, forse per un periodo della mia vita, per quanto possa essere stato il mio primo lavoro, la mia prima passione, forse un pochino mi aveva confusa, perché un po', cioè la musica era davvero sempre quello che ho voluto fare. E quindi forse sì, il basket è stata una fase transitoria, si può dire. Forse mi sono resa conto con il tempo che avevo davvero bisogno di fare musica. Infatti quando tornai dall'America l'anno scorso, ho avuto la fortuna di reincontrare Lorenzo Lombardi Dalla Mano, che è il mio produttore che ha scritto Negra, e quindi insomma ho ripreso a far musica e mi sono resa conto che davvero è quello che io voglio fare. Lampi che mostri ce l'hai dentro e non ce l'hai davanti. Se ti togli sarà perché qualcosa hai dentro e non ce l'hai paura. Davanti. Mi inviti a cena ma soltanto se mi paghi. Alla fermata ti sorrido e non mi caghi. È da una vita che combatto contro i draghi. Nemmeno Harry Potter vince contro questi maghi. Dell'ignoranza pieni d'arroganza, conta l'apparenza, però in fondo manca la sostanza. Quanta indifferenza. E piango sola dentro la mia stanza. Non preoccuparti della negra quando è triste prende danza. Luoghi comuni deleteri, ancora più tristi dei cimiteri. Ero bambina che sembra ieri, ancora credevo nei desideri. Già percepivo disagi reali e seri, e chi li creava di sempre tu. Altro che Balotelli, altro che... Negra, negra, negra, ma quando mi vedi nuda, nuda, nuda, vado bene anche se sono negra, negra, negra, ma quando mi vedi... Poi il brano di Sanremo, vabbè, è una cosa che è successa dopo. Com'è nata dopo. Appunto questa partecipazione a Sanremo? Ma non grazie a me, cioè non per colpa mia, se posso dire la verità. Io dico sempre che è colpa del mio produttore, perché, ma in senso buono, lui è stato l'unico, o almeno colui che ha creduto tantissimo in me sin dall'inizio. E il brano, diciamo, è nato un po' di tempo fa, ma non c'era passato né a me né a lui, proprio per l'anticamera del cervello, di andare a fare Sanremo, comunque di presentarlo. Era comunque un brano che rappresentava me, poiché è la mia storia, ma come può essere la storia di tantissime altre persone. Non l'hai scritto tu però. No, però è un brano. Però te lo senti molto addosso. Sì, diciamo che comunque è un brano molto autobiografico. Io parlo di esperienze che ho vissuto sulla mia pelle. Come dico, a chi all'asilo mi faceva già strane domande, come ad esempio che colore avessi il sangue. Sono fatti reali, cioè sono cose che sono davvero accadute durante la mia infanzia e anche poi nell'adolescenza, purtroppo, dico. E però, riallacciandomi al fatto di Sanremo, insomma, è stato grazie a Lorenzo Lombardi dalla mano. Cioè, com'è stato trovarsi su quel palco? L'emozione, la carica è veramente tanta, ma tanta, tanta, tanta. Perché il teatro Harrison, al di là della storia, anzi proprio per questa storia che ha, ti rilascia forse un'energia che, cavolo, è pazzesca, è meravigliosa. Io, forse il momento più alto del mio Sanremo è stato proprio quando ho messo piede su quel palco e ho cantato. Ci fermiamo brevemente e torniamo a parlare con Cecil tra pochissimo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Questa è musica per l'Africa, musica per tutti noi. Musica dall'Africa, è musica per te. Questa è musica che guarda avanti, questa musica è afro-funky. Questa è musica che guarda avanti, questa musica è afro-funky. Passo indietro, passo avanti, l'energia che va lungo i fianchi. Passo indietro, due passi avanti, questa musica è afro-funky. Passo indietro, tre passi avanti, l'energia che fa andare avanti. E ritorniamo, indovina chi viene a cena questa sera. Parliamo con Cecil, che avete visto e sentito al Festival di Sanremo fra le nuove proposte con questo brano Negra. Potete ovviamente sentire il suo nuovo album da pochissimi giorni in streaming, sulla piattaforma streaming, e dal 4 di marzo nei negozi. Cecil, stavamo dicendo il palco di Sanremo e la sua grandezza simbolica, se non sì, fisica, sì, no? Sì, sì. Tu da piccola guardavi Sanremo? Cavolo, sì, assolutamente. Infatti la cosa che più ricordo di Sanremo è proprio questo momento di condivisione, no? Che si ha con la famiglia. Almeno io ero... ricordo comunque ero lì con mia nonna, con mia mamma, ci mettiamo sul divano a guardare la TV. Cioè è proprio un momento di pura condivisione. Molto italico, no? Sì. Hai calcato quel palco così importante con una canzone già dal titolo provocatoria. Hai considerato la portata provocatoria che poteva avere? Sì, ma io credo che... al di là della provocazione, poi, che fra virgolette, perché in realtà io dico sempre che negro è un protesto. Io sono nera e parlo della negra, ma potrebbe essere qualunque altra parola. Potrebbe essere brutta, frocio, grassa, qualunque parola che viene utilizzata per discriminare una persona e per dirgli guarda tu sei diverso. Soprattutto in un periodo come questo che stiamo passando noi in Italia, penso sia giusto far svegliare un certo tipo di persone. Credo che molte persone non l'abbiano seriamente capito il brano. È un brano molto molto forte, ma è un brano anche che va compreso in tutto e per tutto. E poiché io, come ho detto prima, negro è un pretesto, può essere qualunque altra parola. Purtroppo si pensa di non essere razzisti, ma chi dice di non essere razzista sono le stesse persone che in questo paese hanno definito una parlamentare come Cecil Kyenge un orango, sì. Cioè, o hanno lanciato una banana a un giocatore di calcio mentre giocava la sua partita. Cioè, cose che uno dice, vabbè, l'Italia non è razzista, ma sì, queste sono cose che purtroppo accadono, e quando poi magari le metti, nel senso, le mostri per quello che sono, le persone si sentono toccate nel vivo, dicono no, vabbè, non è vero, non è così. Ma io... Non so se tu hai letto questo articolo che è apparso su Internazionale di Jaba Shego, sì, che è una scrittrice di Mogadiscio, sì, e quindi un intellettuale e una donna con radici straniere, molto italiana lei, e ha parlato della tua canzone come una rivoluzione mancata. Per chi non l'ha letto, lei praticamente dice: non capisco cosa mi dava fastidio di questa canzone e dava fastidio ad alcuni di seconda generazione, quindi ragazzi come te, nati da genitori immigrati però italiani, e cosa mi dava fastidio non era tanto la parola negra, ma quanto il corpo nudo esibito, per, diciamo, allo sguardo bianco. Lei la paragona a quelle cartoline coloniali, no? In effetti può essere scambiato per un atteggiamento colonialista. Tu ci hai pensato a questo, di associare il fatto di essere neri al fatto di essere oggetto, diciamo, di conquista? Qual era la terra, la terra d'origine, l'Africa, nei confronti degli uomini europei, no? Il brano è tutto quanto incentrato sull'ipocrisia, quello che cerco di far capire, appunto, che spesso si è ipocriti. Poi il significato del ritornello mi sembra anche piuttosto chiaro. Io in questo video sono molto no filter, per cui cerco di mostrarmi in tutto e per tutto senza filtri, per cui mostro a te come sono io e dandoti la possibilità a te di non essere ipocrita, almeno la persona che guarda. Nel senso, magari una bella donna di colore negra, o una bella donna grassa, o un bel transessuale, quando lo vedi, insomma, nel privato non te ne frega più, ma però in forma pubblica lo insulti. Musica per l'Africa, musica per tutti noi, musica dall'Africa e musica per te. Questa è musica che guarda avanti, questa è musica che afro funky. Questa è musica che guarda avanti, questa musica è afro funky. Passo indietro, passo avanti, le mie giacche vanno lungo i fianchi. Passo indietro, passi avanti, questa musica è afro funky. Passo indietro, passi avanti, le mie giacche fanno andare avanti. Passo indietro, il mondo davanti, questa musica è... Il 27 di novembre che mi sono presentata lì alla Villa Ormonda a Sanremo, io non, a parte che io non pensavo proprio di arrivare a Sanremo, partiamo da questo presupposto, ma io ho cantato lì dopo che una o due settimane prima c'è stata la strage di Parigi, e per me cantare un brano di questo spessore è stato di impatto sia per me, ma penso anche per chi ha ascoltato, e davvero non pensavo che di poter andare avanti con, insomma, con questo perché brano. Perché lo ricolleghi a quel periodo della strage di Parigi? Perché pensi che dopo quella terribile strage ci siano più pregiudizi verso le persone di seconda generazione? Beh, al di là del colore della pelle, non parlo di un nero, ma parlo anche di religione. Cioè, ci sono stati i soliti commenti, ma le solite dicerie, magari musulmano uguale terrorista. Cioè, ci sono persone che infatti poi hanno manifestato not in my name, cioè non nel mio nome. Il resto del tuo album, raccontaci un pochino delle altre canzoni. Oh, cose belle. Allora, il resto del mio album, diciamo, ci sono 11 brani. E l'album si chiama Negra, come il mio primo singolo. E che dire, verte molto sulla musica, su questo genere di elettronica, per cui è molto molto particolare, queste sonorità elettroniche che tu ti senti molto tue. Sì, un genere, sì, che sì, ti sì piace. È un genere che mi piace, anche se ti dico, io sono molto eclettica, per cui ascolto di tutto, cioè suonando il violino elettrico, quindi sono passata prima da quello classico, ho, diciamo, un background molto particolare. Però sì, questo disco ha queste sonorità elettroniche, 11 brani, ci sono molti featuring, uno fra l'altro con Piotta, che è stato grandissimo e lo ringrazio veramente tanto per aver collaborato con me. Poi ci sono dei brani comunque anche in inglese, canto anche un po' in francese, che sono comunque le mie lingue, quindi italiano, francese, inglese, molto molto bello, cioè sono contenta. Tu hai già dei feedback da parte degli ascoltatori? Come è stato recepito, insomma, i brani che sono stati già sentiti? Guarda, mi hanno fatto i complimenti un po' per tutto l'album, e questa è una cosa che davvero mi fa molto piacere. È piaciuta moltissimo Bambine per sempre, che è un brano che ho registrato con il featuring di Gianna Chillà, e che dire, è un brano che parla del, insomma, che denuncia il femminicidio, e diciamo ha un è un, quasi un parlato più che una canzone cantata. Però beh, questo è l'unico brano forse che un po' si avvicina a Negra, perché è un brano comunque che parla di un tema sociale. Del mio boia, mi disse di voler accarezzarmi, ma mai avrei pensato che intendesse usare armi. Caso, ho solo 13 anni. Ciò che si è detto poi è un'infamia, lo sapete bene voi, che in un programma mi avete trasformato in teledramma, le lacrime di mamma a ridurre il lutto in cronaca. Fate tutto stomaca. Spegni quello special per essere speciale e lasciami andare dove mi possa riposare finalmente. Che la gente ricordi ciò che è giusto ricordare, il mio sorriso solare per esempio, e non lo scempio fatto perché la gente piace. Io, noi necessitiamo pace. Basta parlare, basta parlare. L'italiano normale ha già cambiato canale. Non mi importa niente, non sento niente. Dove sto? Non ho bisogno di gridare più. E guardo indietro, soltanto indietro, come dietro un vetro. Lascio la mia impronta su di un click, è un'altra vittima da riesumare, ed è il terrore che mi assale, perché son donna, figlia, in un futuro sarò madre. Chiedo aiuto al padre, che nel calore di una casa ci sia protezione, non che sia dimora e sede di depravazione, che nell'abbraccio di uno zio ci sia l'amore puro, non una stretta mortale che mette spalle al mondo. Ma al di là di questo, tutti gli altri brani sono molto divertenti. Hanno apprezzato la traccia 1, che è Basta cazzate, da 3, che è quella che ho registrato con Piotta, e poi ci sono anche i brani in inglese che sono stati molto apprezzati, Face Down, Never Never, e davvero sono molto contenta. Molti, adesso quindi proseguirai sulla strada della musica. Sì. Sei anche una bellissima ragazza, so che hai studiato anche recitazione. Sì, tuttora studio recitazione, sono in un'accademia di cinema e teatro, per cui diciamo ci sono arrivate proposte da quel punto di vista. Sì, diciamo che ci sono dei progetti futuri che stanno per arrivare, insomma, molto succulenti, belle cose. Cosa dice suora Elena? È contenta. Fu la prima che mi regalò una piccola pianola già a 3 anni, dicevo: no, guarda, spingi qui. E lei dice: va bene, se devo. È sempre stata lei comunque che mi ha comprato gli strumenti, che mi faceva provare, e quindi sì, un po' hanno influito in questo. Delirante. Se quel germoglio rosa può sbocciare nella notte, e se baciando il sole potrò dirle buonanotte, perché la mia paura non è stare tra la gente, ma ciò che dice e pensa in brutti giochi della mente. La bambina cresce donna, nuovi posti da esplorare, e la condanna la sua gonna che giustifica il male. L'amore l'ha travolta, è più che una passione, è una morbosità violenta, è un'ossessione. Così lei per difesa scappa altrove, e a lui la gelosia la cerca e spegne il cuore. Basta, fai due respiri profondi. E se la tua coscienza lo permette, dormi. Non mi importa niente, non sento niente. Dove sto? Non ho bisogno di gridare più. E guardo indietro, soltanto indietro, come dietro un vetro. Perché avanti non potrò guardare più. Non mi Prossimi progetti proprio nei prossimi mesi? Allora, innanzitutto dopo il 4 di marzo inizieremo con gli store, per cui andremo insomma nei negozi di dischi o comunque sì, appunto in tutti i negozi a presentare il disco, a cantare comunque qualche brano riguardo al disco, e soprattutto spero a conoscere molte persone che mi hanno seguito, che hanno comprato questo disco e che insomma gli piace. E poi il tour sicuramente inizierà quest'estate, per cui si lavora tanto. Ce l'hai dentro e non ce l'hai davanti. Se ti togli sarà perché qualcosa è dentro e ti fa paura. Mi inviti a cena ma soltanto se mi paghi. Alla fermata ti sorrido e non mi caghi. È da una vita che combatto contro i draghi. Nemmeno Harry Potter vince contro questi maghi. Dell'ignoranza pieni d'arroganza, conta l'apparenza però in fondo manca la sostanza. Quanta indifferenza. E piango sola dentro la mia stanza. Non preoccuparti della negra quando è triste prende danza. Luoghi comuni deleteri, ancora più tristi dei cimiteri. E una bambina che sembra... Io ringrazio tantissimo per essere stata con noi questa sera. Grazie a te. Cecil Vanessa Ngo Nug. Esatto. È stata brava. Bravissima. Grazie Cecile, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, grazie mille, buonasera. Grazie in regia Pietro Lacorte, a tutti voi per l'ascolto, sabato prossimo, ciao. You've got to give a little. That's the glory of love.